non provo dolore, non piango mai per una guerra. Io non provo emozione per un tramonto d'una stella. Io non sento passione, che sia la pace o la violenza. Non affido a Dio la mia indifferenza. Io davanti a un pittore vedo lo squarcio di una tela. Per me l'amicizia è rancore, la libertà non è una vela. Io non cerco l'amore, non metto in gioco le mie carte. E tra il bene e il male scelgo, sto in disparte. Perché non tutto una ragione, e tutto non vuol dire niente. Intanto il tempo striscia in gola la stessa coda del serpente. Perché si vive una volta sola, e a volte è troppo pure quella. Per quanto sembra fuggir di mano il fumo di una sigaretta, non puoi più scherzare col fuoco, solo fra tutti, bruciando poco a poco. Io non provo più rabbia per le ingiustizie sulla terra. Nascondo speranza, stupore, i sentimenti in una serra. Non avverto il pudore, non mi commuovo ormai per niente. Chi cammina scalzo, perso tra la gente. Perché chi arrampica la salita su quel sentiero non lascia traccia, e chi disegna con la matita la parte allena della sua faccia. Ma chi ha raccolto sofferenza non teme affatto carestia galera. Chi ha trascinato la propria coscienza si è perdonato la vita intera, e adesso è lì in brinda nel buio, solo fra tanti, con suo bicchiere in mano. Sia ancora al destino, sa che non è approdato a niente, e gli ha donato solo i suoi occhi, hanno vissuto quel cieco istante. Ma se si ama almeno una volta, credi non basta una sola vita a scivolare quella discesa, a terminare tutti con proprietà di mano. Io non cerco l'amore, non metto in gioco bene il male, scelgo sto in disparte.